questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Lungo per Toni, ancora Toni, Luca Toni nella storia dell'Hellas Verona, 16 gol in Serie A, come lui nessuno mai, nel segno di Toni. Ci prova il Chievo in questo finale, Lazarević, cross in mezzo, Lazarević, incredibile al dente Toni, il Chievo si prende il dente ai titoli di coda, Lazarević. What you gonna do about it? Ciao a tutti, Romeo e Giulietta, vabbè, dai, ci arrendiamo. Beh, Pierluigi, giustamente, Pazzi. Siamo a Verona, che bello, devo dire che siamo ancora completamente sobri e quindi sì, carpe diem. Tu sei arrivato adesso. Io sono arrivato da un po'. Senti, mi è arrivata anche una, siamo a Verona, in Italy, 2 ore a proposito, fino alle 16. Sì, ma giorni, questa 8, è una 0, 0, 2 24, ore per l'amore, 2 ore per, bella, 2 ore per la sofferenza, 2 ore per 37. Finito, 2 ore per casa e pepe. Eccetera. Sì, magari, sì. Allora, un'icona della pallavolo italiana, dello sport italiano. Un figo mega galattico, insomma, in questo momento, no, diciamo la verità, ma che fisico. Ragazze, 800240024 per parlare con Andrea Giani. Ciao Andrea. Buongiorno. Ciao. Sembra ancora sobri, confermo. Sembriamo liscia, cassata, eccetera. Tu sei liscio, magro, io grosso e lui è la perfezione, cioè il fisico scultoreo. Ma adesso fa l'allenatore. Cioè, beh, chiaro. Fa l'allenatore di Verona. Verona, tra l'altro. Mi alleno poco, però. Come alleni poco? Mi alleno poco. Non ci crede nessuno, nemmeno Patroclo da Treviso che è riattaccato al vetro. Invece è così. Mi alleno poco. Non ci crede nessuno. Hai schifo, messo su una pancia vergognosa, No, però, cioè, adesso playoff, Verona ottava, grande favorita Macerata, prima partita a Verona, Com'è andata? Prima partita Macerata. Siamo perso il tie break. Abbiamo avuto una palla match nel quarto set, l'abbiamo un po' sprecata. Grande occasione, l'abbiamo persa. Poi abbiamo giocato la gara di torno in casa e ci hanno asfaltato. Però avete dimostrato che forse la distanza fra la prima e l'ottava non era così grande, oppure no? Ma come sempre non è mai la forza di una squadra sulla carta, no? Bisogna giocare in campo. Poi sono partite dove non basta solo la tecnica o la fisicità, c'è l'agonismo, l'attesa. Insomma, noi eravamo una squadra, eravamo già contenti di essere arrivati ottavi. Siamo la squadra più giovane del campionato, abbiamo giocato contro la squadra più forte, chiaramente loro avevano tanto da perdere e nella prima partita sono andati veramente in difficoltà. Chi vince il campionato? Macerata. Secondo me Macerata. Hai visto, ti ho detto giusto. Piacenza no? Ma Piacenza secondo me ha vinto. È la squadra che li ha messi sempre più in difficoltà, li ha battuti nelle gare secche. E adesso in una finale a più partite sono Macerata, secondo me tanto deve vincere, perché obiettivamente quest'anno sarebbe un disastro, cioè, hanno giocato tutte le finali e le hanno perse. L'ultimo obiettivo, chiaramente un obiettivo importante come quello dello scudetto, devono andarlo a vincere. Senti, cosa sarebbe stata la tua vita senza lo sport? Una domanda un po' marzulliana, se faccio una domanda se devo rispondere. È difficile perché... No, però quando ci sono queste icone così clamorose, no? Poi di sport che non sono il calcio. Sì. Allora, sai quando ho preso il primo remo in mano? Quanto? 5 anni. Ecco, 5 anni. Esatto. Mio papà mi ha messo in barca. L'hai mollato a 6. Ho cominciato con la palla da 12, fino a 12 anni ho fatto canottaggio, soltanto che ho iniziato a 5 anni. Poi, andavo sul motoscafo, seguivo le altre barche, per cui diciamo che lo sport no, perché mediamente dentro. Da quella mia povera esperienza, però mi sembra che le vite baciate dallo sport siano vite belle, intense, felici, che noi abbiamo la fortuna di sfiorare, no, la nostra vita, incrociarla con lo sport. Immagino chi certe emozioni le ha vissute, no, ma è chiaro, chi veramente ha vinto o ha perso. Noi viviamo tanto di passione poi alla fine, perché quella è una grande benzina per farti andare avanti, ma insomma nella nostra vita è fondamentale. Sì, comunque voi, insomma, di quella generazione della pallavolo italiana, cioè quella che viene ormai comunemente battezzata generazione dei fenomeni, siete un po' come il Milan di Sacchi, tutti allenatori, tranne il mio amico Zorro che è troppo filosofo per una panchina attaccata a terra. È anche quello che ha smesso prima, sì, poteva andare avanti. Poteva andare avanti, sì, sì, assolutamente, sì, sì. Ma lui è un filosofo. Aveva altri interessi. Quando parli con lui di altre questioni. Diciamo che aveva perso quella passione che gli permetteva di fare delle grandissime cose. Senti, ci fermiamo un attimo per il traffico, poi continuiamo a parlare con Andrea Giani. Per sapere se ti fa Chievo o Hellas. Poi parliamo anche di quattro botte a destro, secondo me un'esagerazione. Io lo dico e non lo nego, lo riaffermo. Quattro giornate di squalifica a destro per quella roba. Una più tre. A me sembra una follia. Il problema è la prova televisiva. Vabbè, la prova televisiva, però a me sembra ugualmente una follia. Convocati. Qui da Vinitaly, tutti convocati, due ore insieme. Pierluigi Pardo vicino a me, Andrea Giani di fronte a me. Allora Hellas o aspetta un attimo, finiamo il discorso che stavo facendo prima. Sì. Ma perché loro, cioè quella squadra, quella di Velasco, quella della leggenda, eccetera, stanno diventando tutti allenatori, cioè lui, Bernardi, De Giorgi, ma tutti allenatori, come il Milan di Sacchi. Siete cavalieri del lavoro, vi hanno fatto qualcosa. Ma quello è per meriti sportivi. Appunto, dal punto di vista pratico, perché stiamo parlando, lo diciamo a quei pochi che non conoscono la storia della pallavolo italiana, stiamo parlando veramente del Dream Team, no? Sì. Dai, non fare il modesto. Ma no, non abbiamo mai vinto l'Olimpiade. Fammi la medaglia d'oro olimpica. Dov'è la medaglia d'oro olimpica? Italia-Olanda. L'ho vista passare. L'hai vista passare con al parecchie lacrimucce. Quinto set, 16-14, una roba del genere? 17-15. Ero lì, ero presente sul posto. Che ci facevi? Forse ho portato sfiga. Perché avevo portato sfiga, evidente. Ti favo. Fu un dolore clamoroso e quell'anno la palla a nuoto ci regalò una fine in una brutta Olimpiade per l'Italia, perché Barcellona 92 fu un'Olimpiade di poche medaglie, però insomma ci vendicò la palla a nuoto proprio nell'ultimo giorno dell'Olimpiade ai supplementari contro la Spagna. C'ero anche lì, quindi non so come porto sfiga. No, volevo precisare questa cosa qui. Però tornando al discorso di prima, meriti sportivi strameritati, cioè comunque avete fatto parte di una generazione forse unica per il volley italiano. Sicuramente ripetere quello che abbiamo fatto noi è, non dico impossibile, però molto difficile. Comunque, ma questo discorso, cioè di quella squadra, proprio come Rijkaard, Ancelotti, Donadoni, eccetera, in molti siete diventati allenatori e allenatori di al massimo livello possibile. Cioè, è una casualità o no? No, non è una casualità, secondo me. Da una parte c'è un gruppo di atleti che ha una grandissima passione, perché smettere di giocare ed allenare devi avere tantissime risorse da investire, perché ripeto, hai dato per tantissimi anni e devi continuare a dare, non è facile. Questo dimostra che abbiamo dentro veramente tanto ancora da giocare, da fare. Tra l'altro tanti ragazzi, De Giorgi, Bernardi, sono all'estero, non stanno allenando qui in Italia, per cui passano 7-8 mesi tra Russia, Polonia, in giro per il mondo. Però credo che è anche perché insomma abbiamo da dare, da insegnare parecchio. Come si sopravvive nel volley alla voglia irrefrenabile di, non dico di fare cazzotti per carità, ma insomma del contatto fisico? Perché parlando con altri, per esempio con Zorzi, dice che in realtà c'è un contatto fisico, un gioco psicologico da una parte all'altra della rete, anche se non ci si può toccare tecnicamente, no? Nel rugby ci si sfoga un po' di più. Fatti raccontare di quella volta che Zorro è andato dall'altra parte della rete contro Cuba a Milano, che due giorni dopo poi il presidente della Federazione Internazionale gli ha mandato una lettera. Sai cosa fai? O dai il tuo premio miglior giocatore in beneficenza o ti squalifichiamo. Sì, quindi peggio di destro, non quattro giornate, quattro anni gli davano. No, però un po' ti alleni a questo. Ti devi allenare, anche l'allenamento deve essere tanto agonismo. Dall'altra utilizzi secondo me la parte tecnica per dimostrare all'avversario che sei più forte e che vuoi vincere. E poi c'è il trash talk. Gli occhi non li vuoi vedere. Cioè devi tecnicamente lo devi ammazzare l'avversario. Tecnicamente, anche psicologicamente. Ma tecnicamente, cioè è una sfida tra il giocatore e l'altro. Cioè tu vai in battuta e gli dici adesso ti faccio ace, oppure in attacco adesso passo sopra, quindi è una forma diversa di, no, questo è molto interessante, è una forma diversa di agonismo rispetto, sì, agli sport dove c'è, cioè, per esempio il fallo, no? Tutta la gradualità degli interventi più o meno fallosi, l'intimidire l'avversario, il fargli sentire il contatto fisico, pallanuoto, un altro però sport dove... Ma sai che c'è tanto anche in questo, cioè tu non puoi fargli male a un giocatore, no? Però quando vai ad attaccare, quindi, e veramente lì scarichi tutta la rabbia che hai, lì al giocatore avversario gli fai capire che sei non solo più forte tecnicamente, ma gli vuoi far male. E questo lo percepisce dall'altra parte, parecchio. E lo percepisci anche tu quando sei, sì, quando, sì, sei incudine e non martello, purtroppo. Luca Brescia, primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Pierluigi. Luca, sei a 40 km da qui, cosa aspetti? Andiamo avanti. Come? Fino alle 4. Sei a Brescia, sei a 40 km da qui. Vieni sotto mare, no? Domani guardo, datemi tempo di arrivare. Qua. Tempo alle 4 ce ne andiamo. 4 e 5. Alle 4 e un quarto ci trovi già in condizioni così, diciamo. Dimmi, spero che abbiate un autista. Tranquillo, no, siamo... tranquillo. Siamo per la qualità, non per la quantità. Prego. Va bene. Scusate se vi riporto sull'argomento calcio, dopo tutto questo, sì, parlare di voglia e di altri sport. Ero un po' preso anch'io, però volevo un vostro parere sulla lotta salvezza, visto che stiamo assistendo a una serie di squadre talmente sparse in coda alla classifica che come non se ne erano mai viste da anni. Io penso che a parte il Catania, che ormai l'abbiamo perso, le altre quattro potrebbero andare tranquillamente tutte in Serie B e forse ci rientrerebbe anche il Cagliari alla fine. Cosa ne pensate? Beh, che sicuramente la distanza fra le grandi e le piccole è aumentata. Se questo è dovuto al fatto che le grandi sono diventate più forti o le piccole sono diventate più scarse, questo non lo so, però sicuramente basta guardare i punti e la forbice fra le grandi e le piccole è cresciuta a dismisura. Sto guardando che abbiamo quattro telefonate, praticamente c'è tutta la quattro: Brescia, Verona, Bergamo, Vicenza. Ma che è? In generale è difficile fare una previsione. Io penso che il Catania abbia perso l'ultima occasione veramente contro il Torino. Catania e Livorno vanno giù, dai. Che Livorno? Perché Livorno scende. Ma poi lotta salvezza come gli altri anni. Il Chievo non è ancora fuori dalla mischia. Il Sassuolo non lo vedo benissimo. Diciamo che il Chievo gli anni scorsi aveva dato segnali di salvezza un pochino prima, quindi quest'anno lo vedo un po' più in difficoltà rispetto al passato. Il Bologna segna pochissimo, dal punto di vista offensivo è veramente disastroso, però l'altro giorno ha dimostrato, al di là dei limiti dell'Inter, di essere ancora una squadra che ci crede. Per me Sassuolo tecnicamente di questa è la squadra che ha più qualità, che ha più talento. Secondo me come talento offensivo sicuramente, sì, quindi... Eravamo rimasti Andrea Gianni, Verona Chievo. A parte il fatto che ho un messaggio, si narra che l'unica gara di canottaggio che il mitico Giangio ha perso sia stata perché gli hanno spostato il traguardo, scrive un ascoltatore di Vicenza. È vero? Ma dai, ti ha spostato il traguardo contro Carmine Giuseppe a Bagnale. era difficile in acqua 4. Salutiamo Giampierone. No, io sono tifoso della Roma. Poi vivo nel quartiere del Chievo, mi ha detto stampa del Verona. Lui? Lui. Facciamo parlare, ma invece tira giù quel microfono. Eccoci qua. Eccolo qui, ti chiami? Giampaolo. La percentuale di tifosi dell'Hellas in giro per Verona? Beh, altissimo. 90%? È altissimo. 80? Sì, 95? No, insomma, beh, se diamo una percentuale, sì, secondo me 90-10, insomma, basta vedere anche il numero di abbonati a Verona. Però insomma, adesso al di là di questa polemica sui prezzi dell'altro giorno, mi sembra una rivalità civile, no? Cioè comunque non è che sono due squadre storicamente rivali da 50 anni, da 60 anni, è una cosa che è nata a Verona in questi anni, che è diventata molto importante. Come la percepite? Ma è una rivalità che si ferma poi sul territorio di Verona, insomma, che si sente quando c'è il derby, si è vissuta un po' gli anni scorsi quando c'era questa differenza di categoria, però una rivalità che poi alla fine si ferma lì. E tu perché sei romanista? Perché ho sempre vissuto a Sabaudia, anni 80, o sei juventino, interista, romanista, laziale. Sì. E io accecato, abbaiato dalla Roma di quel tempo. Incontravi Totti in spiaggia, fra l'altro un grande frequentatore di Sabaudia, no? Sì. Sabaudia e San Felice. San Felice, più Sabaudia. Che ti diceva? Non me niente, niente perché quando lui è arrivato io sono andato via. Ah, okay, okay. Quindi stava entrando. Sì, ma squalifica di destro, tu come la vedi? Cioè, io sono, ho detto la mia, l'ho detto anche ieri. Cioè, preferisco sembra, quelli che da regolamento probabilmente 4, è giusta, eh. Poi mi sembra in questo momento qua. Prima insomma. Parlavamo di agonismo, cioè sì. Ti dico, ha fatto un gesto scorretto, però è un gesto di gioco agonistico, cioè è uno che esagera. Però sinceramente 4 giornate per una roba così mi sembra sì, sono una più tre, una no, più ma, tre. Ma la cosa che non è la prima volta che succede, che secondo me non torna, è che se fosse stato espulso, ne parlavamo ieri sera con Graziano Cesari, magari adesso proviamo anche a contattarlo, anzi Graziano, se ci stai ascoltando a bocca d'asse, ma stava già facendo il bagno sotto il sole a abbronzarsi, sì. Esci due secondi e chiamaci. No, veramente, se fosse successo in campo, cioè se l'arbitro se ne fosse accorto, la Roma ovviamente avrebbe avuto il cartellino rosso ed era due un giornate, problema nella partita. Però prendeva due giornate. Questo è un problema che riguarda proprio in assoluto la ratio della prova televisiva. La prova televisiva, dove l'arbitro non vede, dice di non vedere, viene corretto dalle televisioni e il minimo sindacale sono tre giornate. Quindi è di più che se l'arbitro avesse visto. E questa mi sembra onestamente un'incongruenza abbastanza clamorosa. Poi in questo caso è abbastanza difficile pensare che l'arbitro non l'abbia visto, perché no, poi tra l'altro, per carità, dà un cartellino giallo a Story che poraccio che, non che si comunque sa cosa è c'entra. Successivo rispetto all'episodio, sì, glielo dà perché lo però l'episodio l'ha visto, sì, l'episodio l'ha visto e quindi e però non evidentemente non l'ha giudicato grave, appunto. Però poi evidentemente parlando col designatore avrà detto che non l'ha visto perché perché Piantanita che c'è cioè traffico. Cioè, no, che traffico? Abbiamo la borsa. È bollito. Stai altri 10 minuti. Ha bevuto, tutto ribolla. Cioè, ce li hai 10 minuti. Sei tutto ribolla e fiano di Avellino dai. Sei. Vabbè, dai. Tutti convocati. Ma sinceramente penso che sia solo un contatto di gioco, ecco, lui c'è il contatto, io vado per terra e non, credo che non ci sia nulla di grave, ecco. Ma io credo che comunque sia se si chiede a me, comunque a Storia è un amico, non c'è nulla di che, quindi. Prandelli per alcuni episodi, anche dal punto di vista disciplinare, poi ha applicato anche il codice etico, tu pensi comunque che questo episodio sia fuori da questo genere di situazioni? Ma credo che non ci sia nulla. Vabbè, il codice etico dei mondiali mi fa abbastanza ridere. Adesso tra pochi istanti dobbiamo salutare Andrea Gianni. Però è un problema questo per destro, perché sì. 4 giornate sulle ultime 6, per come sta adesso, insomma, veramente. Per destro, per la Roma, dai. Ma poi io al solito passo per. Facciamo il cattivo, va, in un'altra parola. Le tue considerazioni non fanno bene allo sport, la box non la si fa in un campo da calcio. Vabbè. Cioè, a me, no, è un brutto episodio. Ma non facciamo i perbenisti tutte le volte, a tutti i costi, dai. È un contrasto di gioco violento, va bene, ok, ci sta, ma insomma, lo sport è anche agonismo, ce lo diceva assolutamente maestro Andrea Gianni, no? Cioè, Andrea, è molto peggio una simulazione che è molto bravo. Perché dicevo ieri. Quando c'è l'agonismo, uno sport di contatto, comunque certi episodi ci possono essere. Ripeto, non c'è la cattiveria, secondo ma me. Ma se io perché gli avevo dato la squalifica a destro? Perché dopo quel contatto è caduto per terra e si è messo le mani in faccia, quando non ha preso nessun pugno in faccia. Quello che dà più fastidio. Adesso c'era Ligios con un piatto di pasta che si affaccia alla finestra. Piantanita. Sì, niente, se lo mangia. Sentiamo Umberto da Verona, facciamo rispondere Andrea Gianni e poi lo salutiamo. Umberto, buongiorno. Allora, saluti a tutti e debutto con un bel Forza Hellas, sempre e comunque. Sempre. Però volevo parlare di Formula 1 io. Sì. Non so se avete visto il Gran Premio domenica, intanto volevo ringraziare Hamilton e Rosberg che ci hanno regalato 15 giri al Cardio Palma. Volevo fare anche un'altra affermazione su Ricciardo, che ha dimostrato 3 volte su 3 che Vettel è un campione, ma non un campionissimo, perché comunque gli è quasi sempre stato davanti, a parte quando ha ricevuto le squalifiche. E anzi, volevo fare i complimenti alla Williams e dire di questa cosa, mi dite, io non sono ferrarista, però è già il 5º anno di fila che Alonso non ha la macchina che si merita, o sbaglio? Ah, io lo dico tutte le volte, adesso lo faccio dire ad Andrea Gianni mentre Pardo sta mangiando. Non sto mangiando, ci sono le prove fotografiche. Non sto mangiando, Andrea, guardi, ne ho mangiato uno e l'altro passa la pianta. Tutti i testimoni qua fuori, ho mangiato? urlano io ho assaggiato, no, dispiace vedere la Ferrari così in difficoltà, perché poi siamo tutti tifosi però tutte della rossa, tutti gli anni, tutte le volte, lo so, però posso così confessare una crisi di noia sulla Formula 1, oppure è politicamente scorretto? No, è corretto. Perché a noi, Andrea, ti piace? No, adesso mi piace poco, onestamente, perché non è, ripeto, quando ci sono poche squadre che lottano, e alla fine sono solo due piloti, come adesso l'ultimo Gran Premio, gli altri sono staccati, non mi piace. Ma questa storia del rumore, come la vedi? Pare che l'unico grande problema, il grande demone, sia il fatto che queste macchine non fanno un casino infernale, non urlano come al solito. Beh, rumore fa sicuramente in una macchina, però, ripeto, non si vede un campionato competitivo, poi non lo so, non è il pilota che fa la differenza, ancora. Cioè, è troppo la macchina se va più veloce, chi c'ha la macchina che va più forte vince, no? Guideresti una Formula 1? È una cosa che ti affascina? Mi piacerebbe, sì, sicuramente mi piacerebbe. Ci stai dentro. Questo è un concetto da atleta vero, però, perché è una forma, tra mille virgolette, di doping della prestazione di un atleta, la macchina ovviamente, il doping è consentito, ma è ovvio che se c'è una macchina che va nettamente più veloce di un'altra, hai un vantaggio talmente grande che con tutto l'allenamento e con tutta la tecnica... Cioè puoi essere un fenomeno a guidare, ma poi alla fine non ci vai neanche vicino all'altro pilota, e dov'è l'agonismo lì? Cioè... Questo è vero. Andrea, adesso vai a fare allenamento, avete prossima domenica, playoff per il quinto posto, ma quanto costa quanto conta un playoff per il quinto posto? Ma per una società come la nostra tanto, perché ripeto, noi non siamo una squadra costruita per vincere lo scudetto, però siamo la squadra più giovane del campionato, abbiamo raggiunto già i playoff, questo è il secondo playoff che ti permetterebbe di giocare in Coppa, sai, per noi vale, è chiaro che forse tenere una squadra o un campionato così aperto per squadre che lottano per un posto diverso forse è eccessivo, però giochiamo. L'ultima cosa, tu sei la squadra più giovane del campionato, tu come ti collochi in questa eterna diatriba tra devono giocare i giovani italiani e non gli stranieri? Da pallavolo sappiamo come abbia una regolamentazione molto particolare rispetto a quella degli altri sport, quindi esiste una forma di protezionismo. Io faccio un discorso legato da allenatore ed ex giocatore, per cui io credo che devono giocare più italiani possibili in campo. Se sono bravi. Una società fa un discorso anche economico, perché uno straniero costa meno di un italiano. Esatto. In questo momento qui i budget delle società sono importanti, bisogna controllare anche il budget. È anche vero che però se tu trovi una squadra con tutti stranieri non va neanche bene. No, non va neanche bene, però devono valere le leggi di mercato. Sono d'accordo. Nel senso che devono giocare i giovani italiani se sono bravi, non è che devono giocare i giovani italiani, punto. Cioè, no, è vero, questo è vero, in tutti è vero, gli sport. Sono d'accordo su questo. Grazie Andrea Gianni. Prego, grazie Gianpaolo, grazie a Cazzatore Verone che ce l'ha portato. In bocca al lupo, e vi segnalo che qui a sinistra c'è la pasta. Appena uscite, informazioni di servizio. Guarda com'è, secondo te? Cioè, questi qua li conosco, sono quelli che non assimilano. È un classico. Magari, non è così. La categoria proprio quando... Però ci sono quelli magri, fa no, io mangio tantissimo, un etto e mezzo, due etti, ma non assimilo. Ciao Andrea Gianni, ciao. Poi ciao, si alza in piedi e dici che siamo ottimi amici, perché non lo sfiderei mai a duello. Ciao ragazzi, allora, in bocca al lupo. Andiamo sulla 4. Andiamo, Bergamo, buongiorno. Buongiorno Adriano. Pronto? Presenti? Eccoci. Tutti convocati, salve, come sta? Siamo qui fino alle 4 tutti i giorni a farle compagnia, dica. Complimenti, siete sempre simpaticissimi. A volte. E poi un po' che non sentivo più Giampiero Galeazzi, e questo mi fa molto piacere, ricordo dall'infanzia. Ma volevo intervenire riguardo destro. Sì. Innanzitutto per fortuna che Astori è un suo amico, perché altrimenti... Ci pensa se era nemico che gli faceva. Appunto, cioè, cosa gli faceva. A parte la battuta, sono contento che non ci sarà domenica perché sono tarantino. Però secondo me sono poche quattro giornate, perché innanzitutto nell'ultimi diciamo giornate di calcio, Gattotti a destra banca, se ne ha visti tutti i colori. E oggigiorno con tutte le TV, le telecamere in campo. Mi sembra assurdo che ormai riesci a scappare una cosa così evidente. Sì, Ma cosa aggravante, le tre giornate ci stanno perché ne ha prese tutte, ha prese Bella One, ha prese è il minimo della regolamento. Ma io gli avrei date altre tre per la simulazione. Io ne avrei date tre solo per la simulazione, se vogliamo. Cioè, voglio dire, io continuo a pensare che è vero, è stato scomposto, è stato scorretto, è stato cattivo, è stato quello che volete, però era un'azione di gioco, era un'azione di gioco. Lui ha fatto una porcata, perché ha fatto una porcata, però secondo me fermare un giocatore per quattro giornate per quella roba è regolamento, è vero. Cioè, se mi dice la simulazione, io concordo, che a me dà più fastidio quella. Sul contrasto di gioco, insomma, la simulazione è la cosa in generale, dico. A me è quella che dà più fastidio. È la cosa più scorretta, più contraria allo spirito del gioco. Esatto. Perché un eccesso caratteriale, violento, può capitare, è sbagliato, bisogna pagare. Va bene, diciamo, ma la simulazione è proprio cercare di fregare l'avversario, è truffa, è frode. Mentre il resto è fastidioso. Detto questo, ragazzi, non se ne esce. Il problema è quello lì. Il problema è la prova televisiva che alla fine porta al paradosso che vieni squalificato per più giornate che se ti avessero visto in diretta. Questa è la sostanza. Sul codice etico, non credo che Destro salterà il mondiale per questo. Perlomeno, non credo che lo salterà. Intanto perde quattro giornate, delle quali poteva essere utile tre, in realtà, perché una l'avrebbe persa comunque. In cui poteva essere utile alla Roma e soprattutto poteva essere utile a se stesso per migliorare il suo score e per mettersi in mostra con Prandelli, perché è un momento in cui vanno tutti forti gli attaccanti. He's on fire. We go to Vicenza with Salvatore. Ciao Salvatore. A4. Buongiorno. Vai lui, ma già sfuga oggi. Sono tifoso del Napoli. Ma mi devo sfogare. Ho capito. Sfogati, siamo qua apposta. Allora, fino a 3-4 anni fa noi eravamo succubi di Juve, Milan e Inter, perché non potevamo competere a livello economico proprio. Adesso sono due anni da questa parte che Milan e Inter stanno dietro di noi. Sì. Ecco perché lo sfogo di De Laurentiis a Parma domenica sera. E poi oggi mi sono intossicato proprio il pranzo, perché su Mediaset Bargigi ha fatto un servizio, ha detto Higuain contro Benitez, De Laurentiis contro Benitez. Mancava solo che dicesse Peccia contro il portaghiaccio, là siamo a posto. Comunque il Napoli va bene così, io firmo anche per il terzo posto del prossimo anno. Arrivederci e non bevete molto. Piano falanghina. Niente, è caduto. Si è sfugato poi. Tutte e due, probabilmente. Adesso io non ho visto il servizio di Bargigia, però sono. Cioè, anche questa sono cosa. Non sono suggestioni. Higuain l'altro giorno è uscito al campo e ha detto delle cose. Non è che. Il punto è sempre questo, no? Che sembra che il giornalista, se dice una cosa, i fatti separati dalle opinioni. Che l'altro giorno Higuain sia uscito nervoso dal campo, non è che se l'ha inventato Bargigia, è una notizia. È tecnicamente una notizia e in un'ottica costruttiva il tifoso del Napoli potrebbe avere anche la sana curiosità di capire perché e come si può provare a migliorare questo tipo di rapporto. Vabbè, ma ci sta anche lo scazzo. Ma no? Sicuramente, cioè, così come si celebrano i gol, si fanno le clip, fanno i complimenti e si danno gli otti in pagella, non è che se c'è un problema c'è la censura, non bisogna parlare. Infatti parliamone, ma dov'è il problema nel problema? Cioè ci sta anche questo tipo di. Cioè ci sta anche il giocatore che si scazza con l'allenatore. Ci sta anche questo tipo di cose, senza dire che due non possono più vivere insieme. Sono cose normali, cioè, ma perché dobbiamo traffico, c'è il traffico. Ammazza. Passano per piatto, 14:45. Sì. Tutti convocati. Passare il pallone, Llorente, spalla alla porta, Llorente! Eccolo il gol di Fernando Llorente, mancava da 5 partite, 12esimo della sua stagione, come all'andata, la sblocca lui, Juventus Livorno, 1-0. No, questo è un campionato aperto, molto aperto, perché noi abbiamo un antagonista, la Roma, che non sta mollando un centimetro, e quindi nella nostra testa dobbiamo pensare che la Roma possa vincere tutte e sei le partite che rimangono da qui alla fine. E in virtù di questo, compreso lo sconto diretto, in virtù di questo io dico che il campionato è molto aperto. E niente, dovremo fare molta attenzione, essere concentrati, continuare a fare quello che stiamo facendo. Pirlo, primo palo, Llorente la mette dentro con l'aiuto di Bardi che sbaglia tutto, doppietta di Fernando Llorente. Secondo me non ci crede nemmeno lui. Chiaro, Conte aperto, molto aperto, ma dove? La Juventus ha stracciato ieri sera la classifica di carta velina, che è stata cronaca per 28 ore. Sì, ci sono delle cose oggettive. Da un lato la mentalità della Juve la conosciamo, la mentalità di Conte, che è quella di non dare nulla per scontato. Sì. Dall'altra c'è, e non era così scontato, un comportamento eccezionale della Roma. Che è riuscita comunque, che ha fatto il massimo possibile, sta facendo il massimo possibile per ridare entusiasmo al campionato. Insomma, se ieri abbiamo fatto una puntata ancora in qualche modo sfiorati dal dubbio che il campionato potesse essere riaperto, anche se nessuno ci credeva, anche perché poi scusami, se il Livorno va contro la Juve a fare turnover, vogliamo parlare di questa cosa? No, va bene tutto, per carità, c'è la difesa di Paulinho, però c'è anche però Spinelli certo. Che ha detto andiamo a Torino col Paulinho, sì. Tanto che ce frega, capito, ma che la frega, squadra che si deve salvare, è chiaro che i punti è più probabile farli contro il Chievo, ma non è che se li fai con la Juve, no, ma io, per cui questo, ma sai, la primavera è la stagione delle beneficiate, a turno tocca a tutti. Io resto convinto del fatto che Parma, Atalanta, Verona, Torino, queste squadre meravigliose nel corso della stagione, in Europa League non ci vogliano andare. Poi è chiaro, loro non te lo diranno mai. Però io resto convinto di questo, perché per fare l'Europa League per queste squadre, soprattutto fare un preliminare di Europa League per queste squadre, sarebbe una mezza disdetta, sarebbe un problema vero. Quindi, ma tu l'11 aprile, venerdì, vai a fare la marcia per Tevez? Sì. Hai visto Buenos Aires, fare la marcia per Tevez? È claro. Se lo merita, dai, ma che giocatore. Ma di cosa stiamo parlando? Ma Carlos Tevez fuori dalla nazionale argentina, ma di cosa stiamo anche parlando? Anche se va ricordato che non è che manchino proprio grandi alternative. Sì, lo vogliamo. Attenzione, è arrivato il Montepulciano, un applauso. Grazie. Al Montepulciano, Quella la vogliamo. Pian piano ci stiamo riallineando. Allora, io saluto Alberto Polverosi, penna importantissima del Corriere dello Sport. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Ciao, grazie della penna, grazie. Vuoi un bicchiere di Montepulciano? No, sono astemio. Già quando sei astemio ubriaco, sicché basta. Ma come sei astemio? Che basta che un tu goccio fatto? Di pardo per ubriacarmi. Che ammazza. Figurati, io come ti dico tutti i giorni. Spiegami perché. Non allora, c'è nessun astemio. Allora, Alberto Blubrosi, spiegami perché un ascoltatore mi scrive. Io ho detto che destro non era da assolvere destro. Dico che quattro giornate sono una follia. È chiaro, conto i regolamenti e tutto quanto. Dico che io mi dà più fastidio una simulazione di quel gesto agonistico, sì. Perché preferisco i cattivi ragazzi rispetto ai simulatori e a quelli che fanno finta, eccetera eccetera. Allora, perché un ascoltatore mi scrive: sei sempre più servo del potere. Qual è il potere? Bella. No, la Roma ha il potere, e allora la Juve. Spiegami perché. Potere dei poteri. Non lo so, bisognerebbe chiedere all'ascoltatore. Io lo chiedo, ma non mi chiamano, non mi scrivono. Cioè, al di là del fatto che la squalifica di Lezzo, secondo me, è corretta, il problema sono le giornate. Corretta in che senso? Corretta la squalifica? Beh, certo, sì, no, va bene. Ma non quattro domeniche, questo è quello. Quello lo dicono i regolamenti, però. Sì, lo dicono i regolamenti, ma anche quello di Borgia Valero a Parma lo dice il regolamento. Poi c'è un'applicazione, come dire, un intervento, pre-contatto, un pre-verbale, se vogliamo così, da parte dell'arbitro, che deve rendersi conto. Io parlo ora di Borgia Valero, che è assurdo, si arriva a delle assurdità. E per quanto riguarda il potere, voglio dire, mi sembra probabilmente anche il tifoso del Verona pensa che quello del Brescia sia il potere, non lo so, mai si ragiona solo in questi termini, quindi è un po' sballata, non so, un po' fuori quadro. Sì. Comunque restiamo al fatto che il campionato, per quanto Conte possa dire ancora molto da fare, tutto da fare, il campionato resta chiuso, destro o non destro, no? Guarda, dopo Napoli, io ho visto Napoli Juventus e francamente mi ero creato una qualche illusione, un'idea. E questa idea è durata, sì, francamente, ma già giovedì a Lione mi era sembrata una squadra molto diversa da quella di Napoli. Io non so cosa è successo a Napoli, ha avuto la sfortuna per la Juventus, e sottolineo solo per la Juventus, di vederla nelle tre sconfitte di quest'anno in Italia, cioè a Firenze, a Napoli e con la Roma, e sono tutte e tre in Coppa Italia, e sono tutte e tre sconfitte strane per la Juventus. Quella di Firenze pazzesca, un dominio assoluto fino al 70esimo, se al 70esimo è 3-0 o ma anche 4-0 per la Juventus non c'è niente da dire, dopodiché fine, chiuso, blackout, è solo Fiorentina, è sbriciolata. A Napoli invece di 20 minuti sono stati quasi direi una settantina di minuti così, in cui la Juve non ha capito assolutamente niente di quello che stava succedendo. A Roma secondo me ha contribuito molto Conte col turnover, per cui sono tutte sconfitte stranissime. E qui a Napoli però mi ero fatto veramente l'idea che potesse esserci qualche problema, cosa che invece... Sì, ma altre squadre come il Napoli che possono mettere in difficoltà la Juve, forse c'è l'Udinese, forse la trasferta a Udine, cioè a me quello che sembra, al di là di tutto, al di là di una flessione che potrebbe anche esserci rispetto al passato, rispetto sicuramente alle punte di rendimento che ci sono state a novembre da parte della Juve, su questo non ci sono dubbi, magari la velocità di punta è un po' diminuita, ma oggi la Juve i punti con chi li perde? Scusate, come faceva la Juve a perdere punti ieri con Livorno? Cioè, è questa la sostanza. E quindi, no, ma voglio dire, se avesse perso punti con Livorno, allora sarebbe diventato tutto da virtuale a reale, no? Probabilmente, guarda, ti posso dire, io quando mi ricordo quando ci fu Genoa-Juve, una partita che la Juve poteva non vincere, poteva addirittura perdere, avevo sempre la sensazione che tanto era tutto fatto, tutto deciso. Probabilmente non era così, perché la Roma è stata talmente brava nelle ultime partite che se la Juve avesse perso qualche punto fra Genoa e Catania forse le cose potevano girare, ma così secondo me no. Che cosa c'è adesso? Il GR. Alberto che fai? Ecco. Che fai? Ci sentiamo dopo il GR, ti richiamiamo. Se non dura mezz'ora mi aspetto. Ma come? No, ti richiamiamo tra ma non è minuti. Mica effetto giorno, non è mica effetto notte, non è mica cuore e denaro. A tra poco. A tra poco. Onda, uno contro uno con Perin. Onda, salta Perin e la rete. Onda, il primo gol in Serie A per il giapponese. 2-0 per il Milan. Io penso che la Juventus e la Roma stiano facendo un campionato straordinario e le altre sono distaccate, chi di 20, chi di 30 punti. Siamo in semifinale, sicuramente sarà uno scalino in più di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Il gruppo c'è sempre stato, ora siamo tanti amici, quindi questo penso abbia fatto la differenza. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Io penso che la Juventus e la Roma stiano facendo un campionato straordinario. Queste due squadre stanno battendo record su record, stanno secondo me dando vita a un campionato avvincente. E le altre sono distaccate, chi di 20, chi di 30 punti, nonostante, ripeto, altre squadre abbiano investito per non stare a questa distanza, ecco, rispetto alla Juventus o alla Roma. Trovarsi a stagionare la fine a 20 punti di distacco dal Napoli penso che sia veramente un'enormità. Punto. E allora, seconda ora insieme, 800 24 00 24. Non sto mangiando. Ma come? No, ma dai, ma ci sono mille testimoni. Ho portato i piatti, ne ho passato l'altra Piantanita, che è un altro finto magro di questi qua, così, che mangia e non ingrassa. E dopo Andrea Giani, visto che siamo a Verona, in Italy. Il piatto è pieno. Sandrino De Poll. Non mangio un fumo. Buongiorno a tutti. Ciao Alessandro, che mi deve un caffè da 10 anni, cioè da quando ho detto, giocava a Varese, mi pare, con Pozzecco, ho detto Alessandro De Poll, il mio giocatore preferito. No, ma allora te lo chiedo subito, hai visto destro eccetera eccetera, calcio presente, no? Calcio io non capisco, ha dato una specie di pugno, quattro giornate di squalifica, cioè lui era uno sort of punch, una specie di pugno. Essendo essendo un fighter, è uno che normalmente, cioè l'avversario, con le buone o con le cattive, lo stirava, no? Certo. No, sempre in amicizia. Grande correttezza. Non dire stupidaggine. Adesso fai vice allenatore a sì. Tezenis Verona, Lega 2. In battaglia per i playoff. In battaglia per i playoff. Mancando giornata alla fine della stagione regolare, vediamo come sarà la griglia e poi gli accoppiamenti finali per i playoff. Allora, io volevo chiudere il discorso con Alberto Polverosi. Ciao Alberto, sei tornato? Sono tornato. Ma grazie. Tabiani Pescara, no, grazie per darmi una mano, anche perché Pierluigi è impegnato. Cosa, ma non è vero, sto qui, ce l'ho davanti e non li sto mangiando. Guarda le ragazze qua fuori. No, ma poi mangiare. Ma non posso mangiare, ma sto in diretta, ma non posso, ma ci mancherebbe altro. Ma poi io non ho mai. A me il cibo, francamente. Soprattutto il carboidrato, a poi quest'ora, ormai sono le 3:10. No, volevo chiudere il discorso con Alberto Polverosi. Sì. Su. Vabbè, lasciamo stare la fotografia in prima pagina di Llorente e Pirlo in questa esultanza vagamente hard. Sì. No? No, io non so se avete visto l'immagine invece ieri a Tiki-Taka, che abbiamo lungamente approfondita. L'entusiasmo, la passione quasi eccessiva, no? Della festa in tribuna per il primo gol di Llorente. L'abbraccio fra Marotta, Nedved e Agnelli ha fatto il classico gol della Madonna. Incredibile, sì. L'ho notato anch'io. Io ho fatto una riflessione molto banale. Che matura dall'idea, e me l'ho fatta a Napoli. Cioè, ho pensato, quando li ho visti dopo il primo gol al Livorno senza Paulinho, come hai detto te, col turnover, ho pensato che loro fossero certi di avere delle difficoltà, e che anche quella partita per loro potesse diventare, potesse complicarsi, perché era un'esultanza, voglio dire, degna di una partita Champions League, sì, sì. Ma insomma di un Juve-Roma di sicuro, ecco, di un Juve-Napoli di sicuro. Quindi dopo poco, per fatto, io ho pensato quello immediatamente appena l'ho visto. Però secondo me è anche il segno di una cura del dettaglio quasi maniacale, per cui anche una partita apparentemente facile con Livorno, che non si sblocca nei primi 27-28 minuti, poi viene vissuta in questa maniera. Io ho letto molta fame agonistica di una squadra. Vabbè, ma ci sta. Io ci ho letto molta paura. Cioè, paura, molta preoccupazione. Preoccupazione. Sì, sì, sì. Molta preoccupazione. Ma perché? Perché arrivavano da Napoli? Vabbè, ho capito, ma cioè, ogni tanto è fisiologico anche perdere, anche per le grandi squadre è fisiologico, sì, perdere. Perfetto, no? Sì, ma Napoli non è stata una sconfitta, perché è stata una sconfitta, ma Napoli, non, la Juve, infatti la forza per questo, ti dicevo, mi era venuta questa mezza idea che poi con Livorno è stata subito annullata, a Napoli non hanno visto palla. Cioè, sì. È diverso il concetto, la Juve che perde è successo 3 volte in Italia quest'anno, è già un fatto raro, ma la Juve non vedo palla nemmeno a Firenze, dove ne ha presi 4, certo. Cioè, non ha preso palla, pensato che fossero preoccupati. Quando ho visto quell'abbraccio ho detto, ecco, probabilmente erano preoccupati anche loro. Vabbè. Chi sta meglio come prospettiva futura fra Milan e Inter, al di là dei 5 punti di distanza in classifica quest'anno? Cioè, che sta meglio per il prossimo per il futuro, cioè chi deve essere più ottimista? L'Inter perché c'ha dei giocatori giovani molto più interessanti di quelli del Milan. Sono Icardi e Kovacic, al di là di quello che Kovacic quanto ha potuto dare quest'anno, dove Kovacic diventa uno dei più grandi centrocampisti, registi o un po' più avanti ancora, è da capire, ma l'Europa dei prossimi siamo qui a dirlo ormai da molto tempo. Io sinceramente sarò sfigato, ma una grande partita di Kovacic la sto ancora aspettando. No, ma guarda, ti posso dire soltanto questo di Kovacic, che quando lo prese l'Inter in un mercato con Kuzmano, che ci con della gente, lasciamo stare, parlando con Ancelotti, gli disse, ma voi l'avete seguito, che era già Real Madrid ovviamente, l'avete seguito Kovacic? E lui dice, guarda, Kovacic è uno dei più grandi centrocampisti, quello che io adesso ho scimmiottato era quello che mi aveva detto Ancelotti. E io l'ho visto invece in partite non di grande spessore, ma in situazioni confuse come confusa l'Inter, essere l'unico a mantenere un po' di lucidità. Ecco, per questo dico, fra lui e Icardi, credo che l'Inter sotto questo profilo sia più avanti del Milan. Grazie Alberto. Grazie a voi. Ciao Polvere. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Adesso abbiamo il traffico, poi interroghiamo Alessandro De Poli. No, è vero, abbiamo il traffico. mi sto ancora abituando al palinsesto, no, al palinsesto, alla nuova dimensione da due ore che ci accompagnerà da qui all'eternità. Allora interroghiamo subito Alessandro De Paul. Vai. Anche perché mi sembra, vado a memoria, l'ultimo, uno degli ultimi ad aver vinto lo scudetto a Milano, no? Anche Pierluigi Pardo è diventato un grande tifoso dell'Olimpia Milano. Ma no, particolarmente l'ho vista un po' di volte. Vai a vederla, anche perché... Cioè non sono Simona te lo in, la signorina Simona, Simona te sì, lo impone sì, lei è molto appassionata. No, però devo dire che mi sembra che Milano quest'anno da ex giocatore di basket, quali ma sono? Chi? Io giocavo, l'unico sport che ho praticato in maniera dignitosa, ci sono dirigenti Federer Bertè, Pierluigi ti licenzio, sì. È l'anno di Milano? Sì, penso proprio di senza sì. Se senza ma? Senza se senza ma. Perché la finale 4 su 7 ti pone al riparo da qualsiasi possibile... Anche per motivo lì, ma principalmente perché è la squadra più forte di tutte e lo sta dimostrando. Penso gli sia servito da stimolo molto aver perso la Coppa Italia in casa e da quel momento in poi è stato un continuo crescere. La squadra si è amalgamata ancora di più, si è unita. Questi sono episodi che poi fanno bene perché alla fine ti fanno vincere veramente delle cose importanti. Come si va a vincere a Milano, Alessandro? Perché pressione, come Milano e l'Inter, no? Cioè lì giochi su un forse, grande palcoscenico. Forse anche di più, Forse anche di più perché la differenza rispetto, no? Hai un sacco di pressione addosso. Ma sicuramente, però sai, quando la squadra è rodata c'è stato fatto un lavoro dietro pazzesco. Secondo me Portaluppi è stata un po' la chiave di tutta questa grandissimo entusiasmo ritrovato e di questi successi che poi sono seguiti a questa grandissima stagione, agli acquisti, a ritrovare un allenatore come Luca Banchi che da anni è uno ormai dei top coach europei. E quindi tutto insieme ha fatto in sì che la gente ritornasse al palazzo e che Milano ridiventasse la squadra che per il momento, sì è vero, non ha ancora vinto. E forse in una partita secca Sassari ha dimostrato fino a 2-3 mesi fa poteva essere ancora messa in difficoltà. Oggi come oggi, con la formula dei playoff che ci sono oggi, non credo che sarà messa in difficoltà. Chi sono i tuoi viti cestistici? Larry Bird, Dr. J, Magic Johnson, Jabbar, scegli, vuoi più bene a mamma o a papà? C'è l'imbarazzo della scelta pazzesco, ma io sono cresciuto nel mito di Larry Bird. Ho letto qualche libro. Boston? Ti favo Boston, sì. Sono deluso come una bestia. Ma no, ma sono deluso come una bestia perché ma che me ne Dr. frega? J. Allora, io sono delusissimo perché Sandro di Trieste, mia città preferita all over the world, cioè aspettavo mi dicesse no, ma mio mito Kicianovic o Dalipagic o Delibasic o Sasha Georgievic, che peraltro è mio amico, quindi ma io chiesto degli NBA, faccio esatto, NBA. Ah beh, ma insomma NBA. Una volta Sasha mi ha detto, ma Gallinari ha stretto la mano a Michael Jordan, eccetera, se giocava contro di me, dicevo, vieni a giocare a casa mia a Pionier di Belgrado, poi vediamo, È vero. No, io ho il mito della Jugoslavia, dell'ex Jugoslavia dei canestri, quindi NBA sì, va bene, ok. Sei slavo di estrazione molto slavo, cestistica, sì. Molto slavo. Jugoplastica o Sibona? Jugoplastica. Tu? Severan Zesta. Io andavo più su Spalato, sì, perché tutta i giovani, Raja, Kukoc, Ivanovic, quella volta faceva il capitano, era una scuola cestistica pazzesca. Io senti, credo che quella generazione lì, che incrociò fra l'altro vicende terribili a livello di guerra, è una delle storie di sport forse più incredibili, perché è una generazione di amici che poi improvvisamente si trova a giocare per squadre rivali in un clima da guerra civile, insomma, pazzesco. È qualcosa che difficilmente ha... Assolutamente pazzesco. Ha trovato una sera usciamo a cena con mio amico Sasha. E Caccia si sta ubriacando alle ore 16. Caccia alle 16? Senti, ecco, voi siete allora, qui, ma Massimo, non sapete, Massimo, perché... Massimo, dalla provincia di Monza. Guardi, io le do già tutta la mia stima, tutto il mio affetto. La ringrazio in maniera pazzesca perché è lì. Rinviato da un sacco di tempo. Non so se lei segue il basket. No, io seguo Pierluigi Pardo e io volevo chiedere alla televisione, alla radio italiana, come mai non hanno aperto le loro porte anni or sono a questo grande personaggio che secondo me potrebbe condurre tranquillamente un programma comico. Tra l'altro l'ho incontrato anche al locale Frida di Milano tempo fa, gran signore. Che ora era? Ma grande Massimo, 10:30, 10:30, 11, grande Pardo, veramente. 10:30, 11 del mattino. sono commosso, ma insomma diciamo la sera, che non c'era bisogno di aprire le porte, va bene così, siamo felici. E quindi facciamo... Pardo, come presidente mai del consiglio, ho 40 anni, voglio dire, non è che ce n'ho 77, poi questo è un paese ma per giovani, con quella grinta lì potevi partire prima. Oggi che cosa, che cosa è stato abolito? Ci sarà stata una cosa abolita oggi? Non lo so. Sì, no, ma c'è sotto qualcosa, non ti hanno lanciato prima. No, non l'hanno lanciato, ma perché era un po' pesante, cioè era un po' sovra... ne facevano a lanciarlo. Non è stata una fase magra. Vabbè, parliamo di calcio, dai, Massimo, diamo un contributo, che non puoi aver aspettato un'ora per dire una cosa così e basta. Vai, dici. No, credevo che mi stava tagliando. No, allora, niente, complimenti per la trasmissione Radio 24, che fa sempre delle trasmissioni bellissime. È vero, destro... c'è Matteo Caccia che poi vi raccomando dopo di noi. Su destro volevo semplicemente dire che ricordo che un contrasto di gioco secondo me si fa coi piedi, non con le mani. E poi un'ultima cosa su Totti, cioè nessuno si ricorda che ha rinunciato alla nazionale tempo fa, non conta niente, solo questo. Ma sì, conta, infatti io credo che Totti andrà al mondiale, sinceramente, insomma. Perché mi guardi perplesso? Perché stai a mangiare. Non sto mangiando, ma voglio dire, veramente siamo. Allora, Alessandro De Poi, sta mangiando Pardo o no? No, non sto mangiando, però se mi passa il salame che c'è lì davanti, magari così lo dividiamo. Ma come no? E l'attori che non no, siete altri. No, sulla cosa di Totti, io non credo che Totti alla fine andrà al mondiale. Credo che Prandelli, rispetto ad altri CT, in particolar modo a Marcello Lippi, abbia un livello di maggiore flessibilità in alcune scelte. E vedremo come finirà la questione Cassano, vedremo come finirà la questione Cerci Immobile per quanto riguarda Osvaldo. Cioè Lippi comunque nel 2010 si affidò a una squadra che era la sua squadra, con i suoi fedelissimi, con i giocatori di cui si fidava, e andò incontro a una delusione dopo il grande trionfo di 4 anni prima, perché voleva dare una possibilità a quei giocatori lì. Adesso invece mi sembra che Prandelli sia molto più aperto a quelli che sono i responsi del campionato. Quindi la suggestione di Totti, se c'è stata, è stata soltanto figlia del campionato, non del talento di Totti o di quello che ha fatto nel passato. Ma non credo onestamente che andrà al mondiale. Gennaro da Roma. No, aspetta. Gennaro, aspetta un attimo, perché devo far sentire a Alessandro De Polo, un suo amico di Trieste. No. Oh, sì. Quanto cazzo dia fastidio perdere! E non permetto a nessuno di mancarmi di rispetto quando io perdo, perché mi tirano i coglioni! Ma scusate, ma chiamiamolo Poz. Chiamiamolo, chiama Poz, c'è il numero. Franco Bertanella chiama Pozzec così al volo. Già ti risponde perché risponde. Sai cosa? Una volta l'ho chiamato, no, eravamo in onda e gli dico: guarda, Poz, diretta, no? Sì. Come siamo adesso? Poz, ci sentiamo venerdì prossimo, perché qui su Radio 24 al venerdì si parla sempre di basket. E lui cosa mi risponde? Ma di figa non si parla mai. E che ormai è fidanzato, per cui non so se sì, adesso la testa, ha messo la testa a posto, adesso, no? Parla di basket adesso, come lo vedi Capo d'Orlando? Come vedi Capo d'Orlando, che tra l'altro è tuo avversario, è avversario di Verona, sì, no? Sì, potrebbe essere uno degli accoppiamenti possibili. Sono una squadra, immaginati un po', sì, contro Pozzetto e contro Basile, contro Soragna, contro sì, tutta la masnada di giocatori che hanno. È una squadra matura, con giocatori che sono stati grandissimi e sono grandissimi campioni, quindi c'è bisogno di spiegargli poco, e saranno un osso duro per chiunque li incontri, assolutamente. Comunque, Pozza adesso lo chiamiamo, perché mi ha risposto nel classico modo in cui mi risponde al telefono, cioè? E non è ripetibile, non è radiofonico. E adesso lo chiamiamo Pozza, fra qualche istante, appena ne racconto un altro. Un giorno parlo con Pessina, Messagne. Pessina, che alla mia età siamo due anziani, e mi diceva: quando si è ritirato Pozza a Formentera, no, sì, ha svernato la... Pessina arriva giù e incontra un gestore di un locale di Formentera e dice: ma questo quando ve lo portate via? Certo. Però gli utili delle vendite d'alcol erano alle stelle. Gli utili io ho passato erano qualche elevati. Serata col Pozza a Formentera, devo dire la verità, che è veramente il numero uno. Cioè, sì, lui sta lì seduto, e adesso è fidanzato, però sì, sta lì seduto, ci sono queste centinaia di donne, sì, col numerino che arrivano. Pozza è fidanzato diverse volte. Che arrivano con la maglietta: voglio conoscere il Pozza, voglio conoscere il Pozza. Oppure chiedo muchísimo di incontrare il signor Pozzecco, perché dipende dai paesi, c'è anche qualche spagnolo a Formentera, anche se sappiamo che è un'isola praticamente italiana. E Pozza sta lì e le riceve e le saluta, cioè tipo colloqui di lavoro, signorina, le faccio. Però adesso è fidanzato, quindi fidanzato. Adesso ci mancherebbe, ripeto, è una spagnola, una ragazza spagnola. ripeto, è perché stato cambia la maglietta chiereria di conoscere il, esatto, il signor Pozzecco. Lo tenemos? Lo tenemos? Su che linea però? Pronto? Poz, sei in radio, non porta di bene, eh? C'è De Paul qui. Che cazzo state dicendo? No, Poz, siamo in radio, Radio 24, sì, Industria. Sì, invece mi suonavano le orecchie. Ti suonavano, che tu anche chiamato al telefono. No, saluta dicendo... De Paul. Saluta De Paul. Ciao, sì? Poz. De Paul, San Alessandro De Paul, ricordi? No. Digli quello che gli ha fatto vincere le uniche cose della sua vita. Quello che ti ha fatto vincere quelle poche cose che hai vinto in vita tua. Oh, abbiamo un ricordo bellissimo dei capelli di De Paul. Che stronzo. Ma che cattivo. Non vi sento, ditemi. No, come siete, Andrei? Tutto bene? A posto, a casa, famiglia? Bene, bene, sì, siamo, sì. Siamo a Verona, Vinitaly, vedi tu. Al Vinitaly. Dove siete? Al Vinitaly. Verona, Verona. Secondo te, secondo te potevo andare in uno studio normale al Vinitaly? Due rincoglioniti così insieme non li avevo mai visti, però. Tre, perché c'è anche il signor Genta. Chi è il terzo? Chi è il terzo? Il signor Genta. Poi, senti, eravamo una volta a Torino con Pittis a fare una roba. Mi dispiace per te, stare vicino a Pardo e a De Paul, no, penso che sia una delle cose. No, ma io sono abbastanza. Sto mangiando le sangue. Oh, qua. Ma fate una roba voi due, Pardo e Sandrino. Mettetevi insieme, vi equalizzate e fate in due, fate i capelli per uno. Ma non è vero, ma io c'ho un sacco di. Non riesco a capire. Ma anche le bolle, cioè è un po' stempiato, però voglio dire. Ma... Come stempiato? No, dico un po' stempiato per scelta, perché siamo tagliati. Senti, Poz, che vogliamo parlare di cose serie? Sì, che... Quali trofei cosa vinci serie quest'anno? Cosa vinci quest'anno? Non ho capito, perdonami. Cosa vinci quest'anno? Niente, come al solito. L'unica cosa che ho vinto l'ho vinta con De Paul, quindi evidentemente nella mia vita ho poche possibilità di rivincere, anche perché Sandro non vincerà mai più niente, neanche lui. Quindi sostanzialmente abbiamo vinto una cosa insieme e ci abbiamo messo una pietra sopra, perché è un'emozione che non riproveremo mai più. Quindi se c'è la finale se c'è la finale Verona Capodorlando, chi vince? Beh, uno dei due per no, forza. No, è impossibile. È impossibile, io mi tocco, Sandro si sta toccando sicuro, uguale, ma non è possibile. Non è possibile che né noi né Verona né Capodorlando da su per due motivi. Uno De Paul a Verona e uno Pozzecco a Capodorlando. Quindi scordatevi a Verona che Verona salga, è come si sono qua già dimenticati l'idea di poter salire. Non è possibile. Senti, la prossima conferenza stampa di queste qua un po' pozzecchiane, sì, quando c'erai già in casa. Non questa domenica, quella dopo è prevista, quella dopo. Una conferenza, sì, quella dopo, perché così sono mando già la truppa, 4... capito? Bravo, sono già 3-4 settimane che non sparo grosse cagate, passo inosservato e la cosa non mi va. Poz, ma uno come te, un talento purissimo, ma cioè io un po' ti conosco, sei una delle persone più simpatiche d'Europa, questo va detto, oltre a quel discorso d'Europa, delle donne che corrono da Pozzecco così. Infatti ho detto, adesso è fidanzato. Ma uno come te, ma come può fare allenatore? Cioè Pozzecco allenatore è come... È la dimostrazione che l'allenatore non conta un cazzo. Questa è l'allenatore è assolutamente non necessario, anzi se non ci fosse sarebbe meglio, io l'ho sempre sostenuto, alleno io, salve poi fallisce, e questo penso che sia sufficiente per far capire a tutti che quello che sto dicendo è assolutamente vero. No, ma Sandrino lo vedo bene, E chiedilo anche a Sandrino, avessimo avuto una coppia di allenatori come me e lui, molto probabilmente non saremmo scesi in campo. No, tutti hanno in Italia il basket in Italia è un disastro. Io ho finito la pasta, grazie. Senti, poi ti chiedo ancora una cosa, ma allora io me lo ricordo bene, sì. Alessandro De Paul, quando dopo l'europeo era uno dei giocatori più richiesti d'Europa, a un certo punto lo chiama Real Madrid, ti copriamo d'oro. Perché non è andato a Real Madrid? Per la parabola, perché non gli davano la parabola di Sky. Non c'era ancora Sky. No, te lo dicevo più. Inventane un'altra, perché Sky non c'era. Non si sente pronto più, Gula, si è ciao, via la linea, Gula. Ciao Poz. Ciao, dai, Poz, non mollare, siamo tutti con te. Sandro De Paul, perché è un salto a Real Madrid? Perché sono scemo. No, è stata, c'è stato un discorso contrattuale a Roma, sembrava che facesse, aveva fatto quell'anno un discorso di investimento a lungo termine, 5 anni con una squadra forte, quindi sembrava che il basket nella capitale stesse veramente, diventasse di nuovo una delle cose più importanti, uno degli sport più importanti a livello non solamente nazionale ma anche nel panorama europeo. E Real Madrid era sempre Real Madrid, ma mi dava più affidamento, ecco, rimanere in Italia, rimanere a Roma, ripeto, che aveva un progetto importantissimo. È sbagliato. E dove vivevi a Roma? Sì. Dove vivevi? Salaria, Settebagni, vicino a casa sua, al centro. Cacio e Pepe, Matriciana. Personalità. Allora ci fermiamo per la vostra. Grazie Alessandro. A voi. Grazie Alessandro Del Poli, in bocca al lupo con Verona. Io tifo per una finale di campionato Pozzecco contro De Paul, ovviamente ci accreditiamo assolutamente, fino andiamo a gara 5, Sì, e facciamo il programma da lì. Cioè tra Verona e Capodorlando. Tra Verona e Capodorlando. Siamo prontissimi. Fatto, vi aspettiamo allora. È arrivato Sandro. Il signor Barisoni, ciao. Attenzione, orgoglio giallo-blu. Adesso è lo chiamiamo. Chiamalo dopo la borsa che lui conosce bene. Stanno facendo riunione di redazione. Come vanno le borse? Lo scopriamo subito. Poi Barisoni, ma subito le borse. E non permetto a nessuno di mancarmi di rispetto quando io perdo, perché mi tirano il coglione. Convocati. Un po' come Cocchi e Renato, secondo altri riconciliamo con il calcio, secondo altri vabbè lasciamo stare. No, beh, perché 800240024, no, un miliardo di messaggi. Ma è una marea. 349-238-6666, poi Gennaro Barisoni solo contro tutti, Grande tifoso, Dov'è Barisoni? Ecco lì, bella. Perché non viene? Raggiunto quasi, mi fermo a chiamano? Dormire. Bussalve, Brescia. Barisoni. Esempio di come ha vissuto lo sport, ce l'ha con noi, ironia, passione, sdrammatizzazione, hai capito? Vabbè, roba seria. Parto a Cacio e Pepe, 2 ore con Beleno, con Cassano. Con Belen, ci ho pensato un attimo, poi ho deciso che forse con Belen, anche se la Cacio e Pepe è conviviale. La poi tra l'altro domani dovete sapere, comunicazione di, amici, sì. Comunicazione di servizio, Pardo mi molla qui da solo, perché Madrid, va a Madrid, sarebbe la Champions, anche stasera ci sarebbe la Champions, Atletico però. Madrid, io la guardo, non vengo a cena con te, tra l'altro devo vedere 4 HD eccetera, disponibile per tutti, non soltanto chi vince pay. Domani tra Atletico Madrid e Barcellona, chi passa questo turno? Io penso che sia la era non fare democristiano, no, faccio il democristiano, 1-1 all'andata, intanto arrivano i formaggi, grazie signorina Francesca che ha portato i formaggi. No, io penso che sia una che ti devo dire, sono è tutto l'anno che pensiamo adesso il adesso l'Atletico molla, il Barcellona è più forte, il Real è più forte, l'Atletico molla, adesso è tutto l'anno che va avanti questa cosa. Hanno giocato 4 volte contro il Barcellona, hanno fatto 4 pareggi. Siamo a 6 giornate dalla fine del campionato e sono a più 1. A Barcellona hanno dato una grande prova di forza. E chi passa al turno? L'Atletico. Gennaro da Roma, chi passa al turno? Passa al turno l'Atletico perché fa 0-0. Attenzione, però che andrà intensità. Così perché non prende gol. Quindi ora, Genta mangia, Genta sta mangiando. Sì. Sì, no, ci devi perdonare. Avete fatto un'ora di macchina, però è fantastico contribuire a di due cose con voi. Però oggi vi devo dare una tiratina d'orecchia a tutte e due, soprattutto al capellone di Pierluigi. Secondo me è la location che vi ha un po' distratto oggi. Ma avete letto le motivazioni della sentenza? Io non so, forse l'avete fatta inizio trasmissione magari. Cioè, il giudice praticamente chiede all'arbitro che manda 2 email e un fax, dove dice che la condotta lui non l'ha vista nel primo fax. Nell'email successivo, delle 16.50, lui, in riferimento all'episodio destro a Story, dice che accorda il calcio di punizione, ma per una trattenuta, perché il resto non è stato visto né da me né dai miei collaboratori. Oh ragazzi, questa è una sentenza storica, una decisione di un arbitro viene confutata. Non è mai successo. Sì. Tutte le prove televisive, l'arbitro non aveva emesso nessun tipo di sanzione, né espulsione. Questa è la prima volta. Sì, sì, no, ma io sono, Gennaro, sono d'accordo torto, con te, dal punto di vista regolamentare, dal punto di vista dell'episodio, certamente un episodio che, vabbè, doveva, che doveva essere sanzionato, e ribadisco per la terza volta, ormai sono sul carrello delle politiche, sarebbero state meno giornate se fosse stata sanzionata che dopo. No, ma dimmi una cosa, ma secondo te quella, quell'episodio è da quattro giornate di tre politica? Tre più una, vabbè. Da tre. È da quel... Resta il fatto. No, quell'episodio è da due giornate. È da tre giornate. Quell'episodio, ma è, perché scusa, il pugno di De Rossi? No, ma infatti. Di De Rossi e tutte le altre situazioni che ci sono. Quindi De Rossi, secondo me è più vigliacco, più cattivo, più. Più a gioco fermo. Più a gioco fermo su un'azione da palle inattivo. Sì, il punto fondamentale è sempre quello che la prova televisiva ha un tariffario che è troppo alto rispetto alle sanzioni che vede l'arbitro. Cioè, non può pagare Destro in questo caso, o qualsiasi giocatore, di più. Perché certo. L'arbitro non ha visto. Ma certo. Se l'arbitro vedeva, Destro saltava meno partite. Certamente. Poi la Roma aveva un problema processo. L'altro giorno, perché sicuramente magari la partita non la vinceva 3-0. Comunque ci può essere il dubbio che non la vincesse con la stessa sicurezza. Però, insomma, direi che non c'è una mail discussione. Sul telefonino esclusivo a chi? Sì. Luca Toni si candida come bomber della nazionale. Ho segnato 16 gol, nessuno su rigore. Si candida chi non ha mai segnato un gol quest'anno, figurarsi se non posso farlo io. Beh, ma Toni ha fatto una stagione incredibile. Toni ha fatto una stagione incredibile e secondo me con una serie di giocatori capaci di dargli assist, Toni è un giocatore ancora con delle possibilità. Per me forse poi alla fine sarà il primo dei non eletti. Il primo degli esclusi. Anche secondo me. Però la sensazione è che se la possa nel reality di Gennaro del mondiale. Gennaro, allora, no, Gennaro da Roma ha parlato prima. E vabbè, adesso Paolo da Napoli. Paolo da Napoli, 4 giornate di squalifica a Destro ci stanno? Secondo me ci stanno tutte, perché in realtà tutte. Sono tre, e non sono d'accordo d'accordo con voi per tutto, però su questo no, perché ci sarebbe da punire la condotta violenta di Destro che rifila un pugno al ragazzo del Cagliari e in più finge di essere stato colpito per... Allora se mi dicono tre per la simulazione io patteggio, tre per la simulazione io sono disposto a scendere a compromessi, tre per quella... Per il pugno? Per il pugno, per quel contrasto di gioco a palla viva. Secondo me è un concorso di colpi, un po' tutto, nel senso che va messo sia il pugno, sia che lui dopo, cioè Astori prende il cazzotto e lui rovina a terra come se fosse stato sparato in pieno petto e poi quando anche viene intervistato dice no vabbè ma è un'azione di gioco, no non è un'azione di gioco, faceva anche forse più bella figura. A stare tranquillo, a dire sì, ho sbagliato, amen. E poi comunque secondo me, a mio parere, se l'arbitro vedeva il pugno lo cacciava fuori, quindi almeno due giornate gliele dava, più quella che saltava tutti i 60 minuti finali, erano tre giornate. Infatti, però io contesto il principio che il tariffario della prova televisiva debba partire da tre giornate, perché mi sembra onestamente troppo che il tariffario parta giornate. Allora, perché secondo me tre giornate per quell'episodio è una follia. Cioè, perché torno a ripetere, io sarò anche molto malizioso, insomma, o poco buonista, però a me non, ripeto, mi dà più fastidio la simulazione di Destro rispetto a quel contrasto. È vero, c'è che dai un cazzotto, quell'altro reagisce, gli dà una gomitata, ma sono contrasti di gioco. In Inghilterra come sarebbe tu che segui quotidianamente? Sì, assolutamente. La cosa peggiore è la come simulazione. La cosa peggiore è la simulazione. L'insulto peggiore all'attaccante è quello di essere un simulatore. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Dove andiamo? A 4, Alberto. Alberto da Brescia. Alberto. Sì, buonasera. Ciao Alberto. Niente, io volevo solo far notare che al Brescia, sì? In occasione di Crotone Brescia. Sì. Hanno squalificato Paci per 7 giornate e Di Cesare per 4 giornate per dei fatti che sono molto meno evidenti rispetto a quelli in questione. Ma qui si fa una valutazione di principio, non è che si fa una valutazione a favore di uno, cioè io non lo so, in generale io quando parlo di concetti, di principi, indipendentemente dalla maglia di un giocatore piuttosto che di un altro. E qui c'è un discorso che vale per tutti quelli che vengono puniti dalla prova televisiva, cioè che le tre giornate sono il minimo della prova televisiva, per cui se ti va bene, cioè se tu fai qualcosa che rientra nella fattispecie di essere punito con la prova televisiva, meglio che ti va, sono tre giornate. E questo secondo me è sbagliato, tutto qui, insomma, perché sono troppe, perché sono semplicemente troppe. Qui siamo. Però facciamo finire ovviamente Alberto. No, stavo dicendo che per uno per prendere sette giornate di squalifica, cosa deve aver fatto? Chi? Pronto? Sì, no, non mi riferisco al fatto di Paci, che si è preso sette giornate di squalifica, cosa ha fatto? Ti aspettiamo al Vinitali fra poco, Alberto. Quant'è Brescia-Verona? Mezz'ora. Prima c'era un incidente fra Brescia Centro e Brescia Est. Ma ti aspettiamo. No, ma sono d'accordo, ripeto, ribadisco, dai, le cose che ho detto qualche secondo prima. Enrico da Cagliari, Enrico. Aspetta, traffico. Ah, traffico? Eh sì. Prima di Enrico da Cagliari, traffico. Tutti convocati. I nerazzurri in quella città e non può non averla nel cuore, quindi io gli auguro di far bene e di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi. Stramaccioni questo in onore, sì, di Matteo Caccia, che ci ha raggiunto oggi la puntata, no, allora, belli. È prima Gianni, poi De Paul e poi siamo io e te che ci famo. No, non buttiamo giù perché andiamo non via come il pane. Però non siete male, questo, non siete non così male visti da qua. Andiamo via come il pane, senza motivo. Folle fuori dallo stand di Radio 24. No, nei livelli Pozzecco, ma ce la caviamo. No, io volevo dire che Genta fa come... Hai presente i campi da tennis noleggiati per un'ora, no? No. Noleggi il campo dalle 4 alle 5, dalle 5 alle 6. Se noleggi il campo dalle 5 alle 6, c'è sempre quella alle 5:50 che arriva lì, comincia a scaldarsi con le palline fuori, che ti mette pressione. Cioè, che caccia, mancano 12 minuti, ma che vuoi già dentro lo studio? Dovevo solo appoggiare le scalette perché devo fare un salto in un altro stand, allora, ma tornerò più tardi. Gliela leggiamo. Oggi una grande saga familiare. La storia che sto per raccontare sembra una di quelle fiabe per bambini che dovrebbe cominciare con "C'era una volta tanti anni fa". Guarda, parlo. Fai che rimani anche alle 4 e allora andiamo avanti, facciamo così, ci impossessiamo di Radio 24, andiamo avanti, leviamo anche il signor Cruciani fino alle 21. Sì. Stiamo qui fino a, avete capito? Fino alle 21. Male, ma vuole bene. Male, un disastro. Allora, me la ricordo oggi, questa è una clamorosa gag di stramaccioni. Senti questa. Comunque posso dirti adesso, siccome non chinetina, voglio censurare, è pieno di gente che dice che stai esagerando su destro, che me ne destro frega, me ne frega niente. Benissimo. Io tengo la mia. Allora, io preferisco quello che combatte. Anche io voglio una dire scorrettezza fra tifosi e non ero coinvolto. Va bene, poi c'è voto, anche, cioè, c'è anche un poveretto che mi scrive, ma se tuo figlio prende una pizza in faccia da un altro, che succede? Oh, ragazzi, stiamo giocando a pallone. Cioè, preferisco quelli che combattono rispetto ai tacchini freddi. Tu sei questa sindrome di Stoccolma che ti piacciono, sì, tutti i cattivi. A me piacciono gli irregolari, cosa vuoi che ti dica? Ecco. Cioè, vuoi che menta? Caccia, allora saluta, mi piace. Caccia saluta donne al di là del vetro. Sì, no, salutavo quel ragazzo che ho conosciuto ieri sera a cena. Sì. Ah, vabbè, allora, sì, novità. A me piacciono quelli combattivi. Ok, adesso diamo queste quattro giornate, secondo me, totalmente immeritate. E poi diciamo che ci piacciono invece i bravi ragazzi, quelli che non dicono mai le bugie. Andiamo da Giuseppe, provincia di Bari. Giuseppe, che Bari è adesso? 20.000 persone tutta la settimana allo stadio. Così si dice. Pronto? Com'è? Sei andato allo stadio ultimamente? Ma io sono a Monopoli, quindi sono tifoso del Monopoli. È chiaro, ma il Bari so che hanno fatto degli spot. Ma voi di Monopoli adesso, scusa questa digressione, come vivete questa cosa che c'è? Cioè, la città è famosa, ma è più famoso il gioco, cioè come se uno abitasse a Risico. Lo so, Pierluigi, ma quello è il Monopoli, noi siamo Monopoli, però ormai l'abbiamo presa per buona. Immagina, ma dove abiti? A Parco della Vittoria? Gialle dei Giardini. No, io sono a Vicolo Stretto, sempre quello. Vicolo Stretto. E sono appena tornato dal Vinitaly. Come è appena tornato? Arriviamo noi da via te. Caccia chiede in che categoria è il Monopoli. Il Monopoli è in pratica sta per salire, si spera di salire nei dilettanti. Sta per. Domenica però abbiamo perso in casa, allenatore stiamo fatto fuori e mancano poche giornate alla fine. Allenatore, cioè allora sta per salire, allenatore sì, fatto fuori, mancano poche giornate alla fine. No, il massimo grande l'abbiamo storia fatto italiana qualche... insomma sì sì no ma l'abbiamo fatto qualche settimana fa il massimo, ecco perché noi giochiamo molto, l'abbiamo cacciato e in una giornata l'abbiamo pure richiamato. È un classico, come c'è dicevo lì, io, una grande storia italiana. Cioè, ragazzi, non c'è però da magari fare. Giuseppe vuole dire qualcosa di Monopoli. Sì, no, a proposito dire. Di destro, io premetto che sono juventino, però sì. Il senso probabilmente di dare le quattro giornate, pensavo, e questo vale per tutti, per tutti i giocatori. Non vorrei che forse qualcuno vorrebbe incitare, diciamo, i calciatori a dire la verità sul campo. E quindi uno accetta le due giornate sapendo di prenderle anziché poi. Ma perché? Ma chi dice la verità? Allora, no, io ammetto, io giocassi a pallone, cioè, non direi la verità. Ma dove sta sta verità? Ma tu sei buffon, pari quel tiro oltre la linea, ma dici la verità? Ma dove? Ma cioè, ma vogliamo raccontarci le balle e fare i bravi? Oppure vogliamo essere onesti? Io sono buffon, paro quel pallone, giochiamo. Vuoi la sindrome di Stoccolma? L'ipocrisia è un male, sicuramente. Sono d'accordo. Faccio gol di mano come Maradona, ma esulto. Soprattutto non devono essere i giocatori che si autoaccusano. Il famoso caso Rizzoli-Sansone. Cioè, non è che la decisione viene presa in maniera assembleare, tipo. Sembrate Gianni e Pinotto, comunque. Adesso no, prima eravamo Coghi e Renato. Passiamo da Lorenzo. Aspetta, io voglio sentire Caccia. No, aspetta, io voglio sentire Caccia sullo striscione. Se lo fai sentire Guido, Giulio e Lorenzo, me ne vado, Tanto è uguale. Questo è vero. Allora, voglio sentire Caccia sullo striscione apparso oggi alla Pinetina. Allora, Mazzarri, due punti. Fai giocare Kovacic almeno nella partitella. Era così, no, Piantanida? Era così. Beh, il tifoso è ideologico, per cui ha delle grandi idee che spera di portare avanti. Ma tu eri in piazza per Guarin? Kovacic è una grande idea. Io ero in piazza per non vendere nessuno alla squadra. Ma tu avresti venduto Guarin alla Juventus? No. Appunto, no. Cioè, avresti preso Vucinic? Vucinic sì, però di fatto se c'è uno che può fare bene la Juventus, un interista non glielo dà. Perché proprio perché essere tifosi vuol dire essere ideologici, allora certo. se posso farti un po' male, non si tratta con l'avversario, con l'avversario sostanzialmente. Giulio, però parliamo di ideologie, ma è chiaro. Giulio da Pescara, Giulio. Salve, siete simpaticissimi. Anche tu non scherzi, volevo Giulio. Ricordare a proposito che sarà pure un fatto ideologico, come sto sentendo le ultime battute, però mi pare di ricordare che Preseghe in area del Lecce, è un episodio, voi sarete sicuramente molto più precisi di me, e Nedved in occasione di un Juve-Roma, insomma, mi pare che insomma sia Preseghe, non so, un pugno, qualcosa in area, non so, fece un gol di pugno, non mi ricordo. Quindi? Nello specifico, Nedved praticamente una falciata in area, si alzò con la testa accennante giusto, il replay mostrò che non era stato nemmeno sfiorato. Poi Nedved è diventato anche un pallone d'oro, praticamente. Sì, ora, comparando questa situazione con Destro, con la questione di cioè, ha pestato un piede all'arbitro Farina, insomma. Cioè, ma cose, sì, insomma, ma va bene, ma non dimentichiamo che il contesto non è quello della posta dell'ufficio postale presso quale vai ogni mattino, della banca doveva pagare le tasse. Un sinistro alla persona davanti per saltare, cioè, ma la fila. Ragazzi, ma è agonismo, siamo sul campo di calcio. Ma... Giulio da Pescara, hai 10 secondi. Giulio, guarda, mi sto imponendo per te. Giulio da Pescara, c'è Piantani. Giulio. Ha già parlato. Grazie a Giulio, sei stato. Ma come ha già parlato Giulio da Pescara? Ah, era lui, è vero, scusa. C'era un altro Grosseto, però. Non sono bollito. Va bene, ragazzi, scusate. Va bene, da Vinitaly, domani dalle 2 alle 4 siamo qui. Per chi ancora ha il coraggio, Matteo Caccia arriva subito dopo. E Pierluigi Pardo va a Madrid. Vabbè. Franco Piantini invece sta qua con Paolo Corleoni. Ciao a tutti. Ciao.